Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. La grande contentezza che ebbe Don Celzani di quel mezzo consenso fu profondamente amareggiata nei giorni seguenti dal ridestarsi dei tristi sospetti che gli aveva messo in cuore la signora Fassi, i quali ingrandirono mano a mano e si fecero così terribili nella sua immaginazione che il giorno fissato egli salì le scale interminabili del palazzo di città con l'animo di un malato che va dal medico a udire la sua sentenza di morte. Oltre che, sebbene conoscesse il cavalier Pruzzi come un buonissimo uomo e fosse conosciuto da lui, gli ripugnava di dovergli confessare la sua passione e i suoi propositi, poiché non avrebbe potuto, senza confessarli, rivolgergli le domande delicate che erano necessarie. Entrò timidamente nel modesto ufficio del direttore, che era una piccola stanza rischiarata da una finestra sola, con degli scaffali in giro su cui si vedevano scritti in grandi caratteri i nomi di tutte le scuole di Torino. Il direttore stava coi gomiti sul tavolino e le mani nella parrucca, curvo sopra un mucchio di carte. Al vederlo così piccolo e grasso, con quella buona faccia imberbe e floscia, sulla quale errava perpetuamente il pensiero inquieto della sua enorme responsabilità, il segretario riprese un po' d'animo. Quelli lo ricevette con un viso pien di rughe sorridenti, somigliante a una maschera di terracotta che si screpolasse, e lo fece sedere davanti a sé, prese il biglietto dello zio e lo invitò a parlare. Quando Don Celzani ebbe finito, si passò una mano sul ciuffetto della parrucca e disse gravemente: «La cosa è delicata». Poi domandò nome e cognome della maestra e a quale sezione appartenesse. Inteso tutto, si mise le due mani sugli occhi e stette un po' raccolto in quel modo, come ricercando i connotati fisici e morali della signorina in mezzo a quel piccolo esercito femminile che gli portava quasi effigiato, viso per viso, nella sua memoria lucidissima. «E diamine!» esclamò a un tratto, scoprendo il viso, stupito di non avere ritrovato subito una figura così originale. E squadrò con uno sguardo lento il segretario, come per affrontare la sua persona con quella di lei. Poi si grattò leggermente la punta del naso con la punta dell'indice e disse, inchinando un po' il capo: «Mi rallegro». Ma troppo tardi. Don Celzani aveva capito il risultato del raffronto. Non ne fu punto, peraltro, e stette aspettando con ansietà. «Dunque», cominciò a dire col fiato corto il direttore, prendendo sul tavolino un foglietto di carta che si mise poi a piegare, a ripiegare, senza guardare il segretario. «Lei vorrebbe delle informazioni, come naturale, di ordine, come suol dirsi, privato. Ma non è così facile di dargliene come lei suppone. Pensi un po', con 500 insegnanti, come si fa a sapere? E poi un monte di cose per la testa, di sopraccapi, di noie. Giusto abbiamo un inverno dei più disgraziati, un visibilio d'assenza in tutte le sezioni. Si direbbe che tutte le maestre maritate si sono date la parola per accrescere la popolazione in questo mese. Queste benedette famiglie di insegnanti. Quando è malata la maestra, manca anche il maestro. Quando è malato il marito, manca la moglie. Quando è malato il bimbo, mancano tutti e due. Non parliamo delle signorine, che si raffreddano per un filo d'aria e poi ci sono gli impedimenti a data fissa. Guardi qui la sezione Savoia». E mostrò uno stato delle assenze. «È un ospedale. Le assicuro, caro signor Celzani, che è un affare serio, serio, serio assai». E qui mise fuori un anelito come dopo una corsa. Il segretario fece un atto rispettoso per richiamare il direttore all'argomento. «Ah», disse questi, «lei è qui per le informazioni? Appunto come le dicevo, si figuri il da fare che c'è a invigilare delle centinaia di signorine, la più parte delle quali son giovani, molte, anche troppe, belline, vivaci, moltissime, indipendenti, sparpagliate per una grande città, nei sobborghi, a 2, a 3 miglia fuori della cinta. Si fa il possibile, certo, come vuole il decoro, ma insomma non possiamo avere un corpo di polizia per i corteggiatori delle maestre e neppure si possono violare i confini d'una libertà ragionevole. È una cosa delicatissima e non puoi immaginare le denunzie, le vendette coperte, gli intrighi. Riceviamo dei mucchi di lettere cieche. Signor Cavaliere, osservò timidamente il segretario, le informazioni. E vengo alle informazioni, riprese il direttore. Certo, sarebbe molto più facile dare informazioni di un maestro. In questo caso non si tratta che di dire è un galantuomo o no, è monarchico o è repubblicano, ha o non ha debiti, beve o non beve. Io li ho tutti in mente, domandi pure, ma come si fa per le maestre? Come si fa? È una cosa complessa, è un argomento spinoso. Oltre che anche sapendo bisogna andare guardinghi. Hanno dei padri, hanno dei fratelli, hanno delle relazioni. Alle volte uno ha compiuto un atto di giustizia e due giorni dopo trova a una cantonata uno sconosciuto con tanto di barba che gli pianta due occhiacci in viso, mulinando un randello. C'è anche il rischio di qualche brutto tiro. Noti pure che per nulla ricorrono ai giornali, e i giornali, veda, per me i giornali sono una calamità in queste questioni, tanto è il male che fanno. I giornali mi fanno paura, io glielo dico francamente, non per me, ma per l'interesse dell'amministrazione e della disciplina, mi fanno paura. Detto questo, ansando, abbandonò un momento la nuca sulla spalliera del seggiolone. Un sinistro sospetto passò per l'animo del segretario. Che il direttore non volesse parlare per non essere costretto a dirgli delle cose gravissime, di quelle che non si possono né scusare né attenuare. E levandosi in piedi per obbligarlo a dargli il colpo di grazia, insomma, gli disse con voce commossa ma risoluta, mi dica se sa qualche cosa, qualunque cosa sia, quali informazioni può darmi della maestra Pedani. Io le domando schiette e precise anche in nome di mio zio. Ma io, rispose il direttore, non so nulla. Un'ottima insegnante, questo glielo posso accertare. Quanto al resto... Don Celzani fece di tutta la sua persona un punto interrogativo. «Non c'è nulla da dire», soggiunse il direttore, «che io sappia ci sarebbe...» «Ma non c'è, mi spiego. ci sarebbe da dire quello che si può dire d'ogni bella ragazza che ha della gente attorno, forse dei vagheggiatori, lei mi intende. Don Celzani gli domandò se sapesse qualche cosa di positivo, se l'avesse mai dato argomento a censure sulla sua vita privata, se non constasse nulla all'autorità riguardo alla sua condotta nei comuni rurali dove era stata. «Ma se dico che non so, che non ci consta, se mi constasse, rispose il cavaliere, trattandosi come è il caso d'un affare grave e d'un amico, parlerei, ma non ho tanto in mano, piuttosto, domandò il segretario, piuttosto, continuò il direttore, io direi, se mi permettesse un consiglio d'amico, le informazioni negative dell'autorità contano poco in queste cose». Vada per altre vie, cerchi notizie della famiglia che è lombarda, di Brescia, se non erro. Proceda cauto, in questi affari non si va mai troppo a rilento, anzi, ripeté Don Celzani, anzi, disse il direttore, quasi con un movimento brusco di sincerità, se ho da dirle aperto l'animo mio, che cosa vuole? Una maestra, le maestre secondo il mio modo di pensare dovrebbero essere lasciate a fare, le maestre hanno una missione, si dovrebbero lasciare a quella, come le monache... Ciascuno per la sua via. E poi, non si sa... Mai certo, perdoni se l'esprimo liberamente il mio pensiero, ma questo è fuor del discorso, ripeto, nulla costa, ossia, ripeto che... Si informi altrove e vada con prudenza. Io consiglio, per il bene che voglio a casa Celzani, e non ho altro da dire. Nuovo sospetto balenò a Don Celzani, una manovra segreta dello zio che, per levarsi il fastidio di un rifiuto o la noia di persuaderlo a indugiare, avesse indotto il direttore a tenerlo sulle corde con parole vaghe. Tentò non di meno un'ultima prova. «Le conosce la mia situazione?» disse. «Può immaginare lo stato del mio cuore? Mi dà la sua parola d'onore che m'ha detto tutto quello che sa?» In quel punto entrò un usciere con un pacco di lettere e di stampe. «Ma che vuole che dia la mia parola?» rispose il direttore rifiatando forte. «Con questa farragine di affari lei vede che non ho un minuto di respiro e non so da che parte rifarmi, Dio buono. Tutto quello che potevo dire ho cercato di dirglielo e lei sa che sono affezionato allo zio. Arrivederla dunque e segua il mio consiglio». Poi, per compensarlo, gli disse piano: «Una bella signorina, però! Oh, per questo, una gran bella signorina!» E lo spinse con bel garbo nel corridoio. In conclusione, al povero Don Celzani rimasero coi nuovi dubbi gli antichi timori, e tornò a casa così scontento, afflitto e ansioso, che non si curò neppure d'andare a rendere conto della visita al commendatore. E il fatto che questi non gliene chiedesse conto quella sera stessa lo confermò nel sospetto che egli avesse lavorato sott'acqua a suo danno, e ne rimase sdegnato e angosciato, ma quella divina bianchezza che aveva visto dall'abbaino gli brillava sempre davanti agli occhi come un focolare di luce elettrica, e a dispetto di tutto e di tutti il suo amore divampava a quella visione più ostinato e più ardente. Con quelle informazioni vacue del direttore, Don Celzani capiva bene che lo zio aveva un pretesto più che ragionevole per negargli il consenso che gli bisognava. Egli ne dovette convenire, benché non avesse perso ogni sospetto d'una macchinazione quando ne parlarono insieme il giorno dopo, e allora, non sapendo a che altro filo attaccarsi, ebbe l'idea rischiata di confidarsi all'ingegner Ginoni. L'andò a trovare e gli espose il caso suo, chiedendogli consigli. L'ingegnere si meravigliò. Che bisogno c'era di informazioni? Non si vedevano scritte e le migliori sul viso di lei? Per parte sua, egli avrebbe messo la mano sul fuoco. Del resto, sapeva qualche cosa. Era bresciana, orfana, figliuola d'un medico militare morto da molti anni, aveva un fratello, onesto negoziante, stabilito nella Nuova Granata. Queste notizie fecero piacere a Don Celzani. «E che altre informazioni vuole chiedere?» continuò il Ginoni. «Vuol mandare una circolare a tutti i sindaci dei comuni dove è stata maestra? Cose da ridere! Una ragazza è sempre un mistero! Non c'è che fidarsi al suo viso e all'ispirazione del proprio cuore! Piuttosto, mi dica un po', segretario amato, a che punto siamo quanto a corrispondenza?» Don Celzani fece un viso così sconfortato, abbassando gli occhi a modo del prete davanti all'altare, che l'ingegnere ne dovette ridere e n'ebbe pietà un tempo, e gli disse: «Senta, se io mettessi una parolina in suo favore, che ne dice? Si può dare miglior prova d'amicizia se io scrutassi un poco il cuore di lei?» «Scruti», rispose mestamente il segretario. «Scruteremo», disse l'ingegnere. «Chissà mai, nel cuore delle donne non ci vede chiaro che l'esaminatore disinteressato. Lasci fare a me e viva allegro!» E si propose di far davvero quel che aveva promesso, non solo per curiosità del caso psicologico, così singolare per la singolarità delle due persone, ma perché da alcuni giorni sospettava che il suo figliuolo, con quella faccia che egli sapeva, fermasse per le scale la maestra, la quale si doveva essere astenuta fino allora dal farne lagnanza a lui, non per altro che per non dargli un dispiacere. Gli pareva atto di buona politica paterna il mettere tra il figliuolo e lei un impedimento. La mattina seguente, uscendo di casa, l'ingegnere Ginoni trovò sul pianerottolo la Pedani, ferma con la sua cameriera, alla quale suggeriva certi esercizi ginnastici per curare i geloni. Alla vista del padrone, la cameriera rientrò e quelli fece alla maestra il solito saluto scherzoso: «Abbasso la ginnastica!» Essa rispose con lo stesso tuono: «Abbasso i fautori dell'infatismo e della rachidite!» L'ingegnere rise e s'avviò con lei giù per le scale. Poi le domandò a voce bassa: «Ma come mai lei può essere così tranquilla mentre c'è dei disgraziati che soffrono morte e passione per causa sua?» Essa lo guardò fisso e gli domandò: «Chi gliel'ha detto?» «Colui che gliel'ha scritto!» «In tal caso», disse con indifferenza la maestra, «discorriamo d'altro». «Come?» Nemmeno ne può sentir parlare? Domandò l'ingegnere. Neppure un senso di pietà a tal segno indurisce i cuori la ginnastica? No, essa rispose, non aveva il cuor duro, l'aveva occupato, era dominata da una sola passione e aveva deciso di consacrarvi tutta la sua gioventù. In ogni caso non avrebbe legato la sua vita se non ad un uomo che volesse dedicarla proprio allo stesso scopo, e disse con semplicità: quello che sposerà me farà della gran ginnastica. L'ingegnere rise sotto i baffi e, squadrando la maestra con un'occhiata, disse: lo credo. Poi domandò: dunque il destino dello sventurato è irrevocabilmente deciso? Da me, riprese quella, non dipende il destino di nessuno, e basta così. Amen, mormorò il Ginoni. Scesero in silenzio gli ultimi scalini. Eppure, disse l'ingegnere sotto il portone, lei ci pensa ancora. Oh, giusto, rispose la Pedani, pensavo a tutt'altra cosa, pensavo che alle bambine sono concessi troppi pochi movimenti degli arti inferiori. Guardi. L'ingegnere diede in una risata e, lasciandola, esclamò: abbasso Sparta! E quella, voltandosi: abbasso Sibari! E infilò il marciapiedi a grandi passi. Don Celzani fu ferito all'anima dalla risposta, pure un po' raddolcita, che gli riferì l'ingegnere, e non lo confortò punto l'esortazione che questi gli fece a non desistere, ripetendogli il paragone della mina con la miccia lunga che sarebbe scoppiata più tardi, indubitabilmente. Ricadde allora in uno stato tormentoso e compassionevole. Continuò a spiare la maestra quando scendeva o rientrava, per incontrarla o seguirla. Le lanciava ogni volta un lungo sguardo indagatore e supplichevole, accompagnato da una scappellata di mendicante che chiedeva un sorriso, per amor di Dio. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Martetti, con Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.